bene, ci sentiamo. Ehi, Tore! Attenzione, signor Battiglio! Attenzione, signor Battiglio! Attenzione, Ginkolo! Signor Giammarini! Ebbetto, buonasera! Incantevole, Rubruccio! Buonasera! Ma è saggito a fare una bruciata di tiracoli la faccia e da visea succede. La morte chi si? No, ho appena acceso. Ho appena acceso i nomi. Io l'ho acceso, l'ho preso, però stavo ascoltando e guardando la TV. Ah, guardi, dovrò bruciare invece avere il vettore già si va di via e già sta entrata. Comunque, buonasera, ben sentito. Anche a me, altrettanto. Signor Ginkolo. Ah, l'ho visto verso le 5 e mezzo, così, che c'era anche Tonino Kawasaki, e sono passati a trovarmi. Anzi, volevo avere quel portatile, gliel'ho fatto vedere, ed è indeciso, così che, ma gliel'ho fatto vedere. Oh, va bene. Oh, quando sarò in coso, allora penserò a farmi la stazione più bella. E fai bene. Aspetta. Fai bene tu, io ripeto. Io senza antenna, come fai? Stavo guardando un tipo d'antenna, forse la me la prendo, me la piazzo, perché con questa non c'è ricezione, capito? Poca roba, per cui vedremo poi qualcosa di più grande, là. Andrea. Stiamo pensando in grande, ma dobbiamo aspettare. Io mi sono fra le mani, ma non lo so, è da decidere se abbiamo qualche soldino, so. No, io già l'ho visto una cosa che mi interessa. Solo che vivo in droppedina anch'io. Ma è un aggeggio troppo bello, va. È bellissimo, più moderno. Già lo so che l'hai visto. Però bisogna stare attenti, capito? Bisogna stare attenti. Cosa si prende? È inutile, la cosa che costa poco vale poco, ho capito come la facciamo. E quello è il punto. Poi bisogna che vedere, conoscere anche certe persone, capito? Lo so, io già me lo sono visto un paio, però non da prendere adesso, molto più avanti, se riesco a passare, gli farò la mia stazione, però li ho visti, però avevo un po' di bocciafoglio. Siccome ci sei selezionato a quello, per cui lo puoi anche fare, andando tutto bene, per cui fallo pure tranquillo, a sei giovane ancora tu, dai, e per cui no, per me no, a me basta un baracchino, e anche troppo, per le chiacchiere che faccio, capito? No, se ci riesco a farlo ne prendo un paio e tutto il resto che ho o lo vendo o te lo fudo una base. Se rifaccio di due cose in più, qualche alimentatore più grosso e boh, ecco cosa faccio. Solo che dovrò ampliarmi l'antenna sopra da buio. Ecco, solo il cipuglio, lo capisci. Tipo, è stata l'importanza che uno riesca a avere la questione, capito? Poi magari piano piano, un pezzo oggi, un pezzo alla nucleare, a denti e così via. La passione fa quelle altre cose. Infatti non è che fai altri visiti, non andare a fare, non andare a vendere, non andare a luogo, per cui si sente in casa e c'è una passione, ce l'hai, ce la devi godere, capito? E fai bene e poi sei giovane ancora, per cui ancora ce n'è tempo. Ci guardo e ci provo al prossimo anno a vedere se... Tanto ogni andato me ne fotte un poco, sia che dal libro che dal tablet, a voglia a farne. Ma quando ando a farlo, non già giù, fisse il motore in capo per la baracca. No, uno si deve decidere, deve riuscire, ci deve riuscire, bisogna metterti di punta, bisogna studiare, almeno quando vai sei tranquillo che le sai le cose, capito? Da ragione. Per me quella questione, perché io ho anche a pensare, ho provato una volta, ma non ci do, io ci ho provato 20 anni, di più di 20 anni fa, ho provato e ma capisci, poi no, non è per me, per cui lascio agli altri che riescono a fare quello che non ci riesco io, che non sono riuscito io, capito? Non è per me quella gente, mi basta questo qua e per il poco che ci sto, capito? Infatti, no, io quando mi metto una cosa in testa la devo concludere, quello mi metto in testa e quello devo fare e ci devo riuscire, ecco cos'è, no, non mi tiro mai indietro. Sono sempre riuscito a farle le cose. Fai bene. Ma è bene, io sono contento che ci riescano, capito? Uno deve essere deciso, devo riuscire e ci deve riuscire. Qui è quando ho preso la patente io. Facevo CD ed essi, puoi immaginare, era promosso, solo che non avevo soldi per fare la scuola guida, per fare con la scuola guida, per cui no, ho mollato tutto, ce l'avevo tutto, ma conoscevo pezzo per pezzo il motore e diesel, capito? Infatti, quello lì, io la stessa cosa. Ho detto, mi devo prendere la patente che riuscirà prima, e era prima che sono riuscito. Infatti, così sarà per questa cosa. Devo dire quello e quello deve essere. E così deve essere, sì. Bene, bene, va, bene, bene, va. Chiama Marino Accoggio e a Bacchisi, va, io fin troppo che sto parlando, vabbè che stanno tutti guardando adesso, per cui devo smettere per forza. Chiami Accoggio, ok, to. Sì, ok, ciao Gio Marino. Attenzione signor Bacchisio! Attenzione signor Bacchisio! Io entro solo a salutarti e chi vedo bugato, ciao anche a Gio Maria, ciao a te, a menta di chi l'americano dizia di sempre, 100 lire per le antenne, 50 lire per le radio, a menta a dirmi. Ciao Cla, ciao, buonasera Ciao Gio Maria! Dopo tanto vi risento, io gioco in campagna, arrivi un po' bassino, ma comunque già ti sento, dai, non c'è problema. Ok, no, io disturbo, per cui avevo smantellato tutto, ho lasciato l'antenino, tanto perché ogni tanto quando entro, capito? Ma del resto no, non ho più voglia, capito? Per cui mi basta così. Quando non voglio, chiacchiere, un saluto e chiudo. Comunque, buon procedimento, va, ci cerchiamo. Ciao Gio Maria, altrettanto ti dico, baracchino, io ho qua un'antenna attaccata all'albero, solo che Emanuele verrà attaccata all'albero di Rabera, io verrà già attaccata all'albero di Arriva, ma già esci vero Mattesi. ufficio e mi tirano baracchino sotto sopra a destra. Sono due passi, per cui mi incolla tutto, però già si sta piazzando bene, sto contento. Ok, ciao, ciao, ciao Tom. Ciao Giomarì, ciao Diavolo. Per quello si è fatto perfetto, vuol dire che ne manco un pezzo, non me ne manco problemi. Sempre chi dà la battenda, che non mi manco in capo una cosa, fate buffa. Ehi, ehi, ciao Giovanni, un saluto, dai, alle prossime, già ci sentiamo ogni tanto, avanti, godiamo un poco di fio da voi e torniamo a casa. Ciao, ciao, buona serata, se disturbi non parlare. Ehi, tutti così abbiamo fatto. Tutti così. Io mi ricordo quando sono andato nel lontano 1982, sono andato con la buonanima di Torellai, capito? E vai era manno, forse abbiamo mano di te. E ci siamo messi e ce l'abbiamo fatta. E poi è andato Gavino anche, Gavino Passo, ed era mano Romatessi e dai, quindi. Però ti ripeto, prima delle radio, le antenne, se vuoi fare attività fatta bene, io non me ne affutti nuda. Io le antenne le ho messe dopo 15 anni e di risolvo dovrei da bugatti, a me non me ne affutti nuda. Io ho tutto, ma non faccio attività. E quindi antenne non me ne servono, me ne serve una e buh. Però se devi fare attività, metti antenne, anche se no non arrivi, manca l'andrigato. E qua, se riesco a fare quello che devo fare, devo vedere, ho c'è un bugaggia, devo guardare come piazzarle, anche no che devo fare tutto in un tubo. Se non metti direttive, caro mio, lì non puoi vanno da due, anche le direttive ci vuole sostegno per mantenerle, se no fai danno. Lì io ti consiglio una 5 bande verticale, capito? È una multibanda per le V e per le U, e si è arrivato to. E va bene lo stesso. Una bella verticale 5 bande, piazzata bene, dove c'hai anche la 27 per fare due chiacchiere. Quello che io dovrò fare in campagna, ma come stavo dicendo, per il momento non mi interessa niente. Va bene così, sono più che soddisfatto e sono un bebè. Capito, to? Però lì devi mettere sicuramente una verticale multibanda, 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80. E poi a fianco le metti una bibanda della Diamond per le V e per le U. E si è arrivato. E tu sei pronto a trasmettere. Infatti, dovrò fare così, dovrò fare. Per mettermi anche un dipolo che già ci sta. E mette a farmi così, tutto attaccato al tubo e al tetto. Perché di più il coso lì non posso mettere. Lì direttivo lo puoi mettere, di l'attacchi o traliccio, attacca a vetturia. Devi bucare il tetto, far entrare il traliccio dentro, fare la gettata e via via. È un'attività che se non hai posto non si può fare. Io grazie a Dio il posto ce l'ho, le direttive ce le ho tutte, però le sto smontando piano piano perché non le uso e si stanno rovinando, capito? Però lì dove sei tu non te ne fai niente di poro. Quando tu metti una multibanda, 5 bande, fai 10, 15, 20, 40, 80 metri e poi c'hai le V e le U, tu sei a posto, puoi fare tranquillamente, girare tutta l'Europa tranquillamente, senza problemi, se non hai grosse pretese vai molto bene. Va bene Dorare, dai, io ti lascio che devo sistemare i cani, che è già ora della pappa, tu via Ruggero mentre funziona, devo cambiare l'acqua, sistemare il gabbiotto, sistemare tutto, che sta entrando una bella arietta, c'è un po' di fresco e quindi ne approfitto, anche oggi non si può dire, manco esci fuori, la rugaggio che vira. Dai, se ci sei riprendo dopo, ok, ti saluto per il momento. Ciao Claudio, stammi bene. In caso, non lo so se c'è Bacchigio. Vabbè dai, adesso provo a vedere. Ascolta, ma il PMR so che siete attivi di nuovo, perché ce l'ho io qua il PMR, ma siete attivi? Oh, non lo so, gli altri ce l'hanno, io non ho giocato tutto. Ah, mi sa che è per la pulizia. Io uso il portatile, mi uso. scappa, non ha giù due, portatemi. Quindi mi uso uno di quelli, attaccato con un cavo. Già va bene lo stesso, io sto per sentirci anche lì che è più facile, anche io c'ho un portatilino, mi banda, che uso per ascoltare le VLU, e ci ho attaccato l'antenna esterna, quella piccolina, la X200, quella piccolina, capito? Non è che ricerca molto, ma comunque già, se siete lì magari già vi faccio sentire, dai. Ok, dai che vado, che è già pronto tutto, io non che devo solo mettere la roba nelle ciotole. Ciao, a dopo, sì, dai, lascio acceso. Sì, ok, ciao Cla. Attenzione signor Bacchigio, attenzione signor Bacchigio, attenzione signor Bacchigio, attenzione signor Bacchigio.